La teoria delle stringhe è nata... È democratico perché... Per OGM si intende... L'effetto placebo... Da Bacon. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 24 aprile 2010 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. Questa settimana a Caccia al Fotone ci occuperemo di due argomenti mixati insieme. Parleremo in effetti di comunicazione verbale e non verbale, unite insieme alla computer science, quindi all'analisi di questa comunicazione attraverso il computer, attraverso degli algoritmi matematici. Di questo ne parleremo con la professoressa Anna Esposito, docente di computer science presso la Seconda Università di Napoli. Buongiorno professoressa Esposito. Buongiorno. Professoressa Esposito, all'inizio noi abbiamo, come solito e come noto, le 100 parole iniziali per introdurre la trasmissione. E allora in 100 parole le voglio chiedere di spiegare al nostro pubblico effettivamente come possiamo definire la comunicazione multimodale. Io non so se troverò 100 parole esatte, perché noi quando comunichiamo non parliamo soltanto, noi gesticoliamo, facciamo espressioni facciali, ci muoviamo in un certo modo, utilizziamo essenzialmente tutti i tools comunicativi che abbiamo a disposizione per fare sì che il messaggio che vogliamo trasmettere raggiunga il destinatario il più chiaro possibile. Nella computer science la comunicazione multimodale significa qualcosa di completamente diverso, perché noi fino adesso, quando interagiamo con le macchine, con i computer in particolare, noi usiamo una tastiera, un mouse, ci interfacciamo con un monitor in cui non vediamo dall'altra parte una persona, vediamo uno schermo con delle icone. La comunicazione multimodale per le macchine significa dotare le macchine degli stessi tool di comunicazione, di interfaccia, che si usano tra gli umani. La comunicazione uomo-uomo dovrebbe diventare anche il tipo di comunicazione uomo-macchina. Perfetto professoressa Esposito, a questo punto ci andiamo ad ascoltare un po' di musica, poi torniamo in studio, descrivo un po' come andrà questa trasmissione. Nella prima parte avremo appunto un'intervista con la professoressa Esposito che ci parlerà di comunicazione multimodale, mentre nella seconda parte della trasmissione avremo al telefono il professor Barbiloni con cui parleremo di domotica. Quindi nella prima parte della trasmissione analizzeremo il perché, nella seconda parte della trasmissione cercheremo di analizzare il come. Quindi a questo punto musica, poi torniamo in studio e poi di nuovo in compagnia della professoressa Esposito. I E bentornati in studio, cari radioascoltatori. Siamo al telefono con la professoressa Anna Esposito, docente di Computer Science presso la Seconda Università di Napoli, e in questa intervista all'interno di Caccia Fotone, che è raggiungibile dal sito www.cacciafotone.it e anche dal sito della nostra radio, Radio Città Fujiko, www.radiocittafujiko.it, ci stiamo occupando, o proveremo ad occuparci, di comunicazione multimodale. Se avete ascoltato la prima parte della trasmissione, quindi quelle 100 parole iniziali con cui abbiamo introdotto, come al solito, Caccia Fotone, vi sarete resi conto che stiamo parlando con la professoressa Esposito di un argomento di cui non abbiamo mai parlato, appunto di comunicazione multimodale. In realtà con la professoressa Esposito cercheremo anche di parlare di un convegno che c'è stato qualche giorno fa, circa un mesetto fa, intitolato COST 2102. Professoressa Esposito, effettivamente il COST 2102, effettivamente che cos'era e di cosa si è parlato all'interno di questo convegno? Allora, è un'azione europea che ha creato un network di laboratori europei e anche overseas di ricercatori che lavorano nel campo della comunicazione multimodale. Nel campo della comunicazione multimodale per implementarla nell'interfaccia uomo-macchina. Quindi mette insieme questi laboratori che sono interdisciplinari, nel senso che non ci sono solo computer science, ma ci sono psicologi, linguisti computazionali, matematici, e insieme si discute di idee e di approcci per migliorare, attraverso modelli matematici ed algoritmi, l'interfaccia uomo-macchina, creando degli avatar intelligenti o dei sistemi di dialogo interattivi che si interfacciano con l'uomo attraverso quei tool che sono tipici dell'umano, cioè attraverso espressioni del viso, movimenti del corpo e delle mani, espressioni facciali. Fino a oggi, per esempio, il riconoscimento automatico della voce escludeva tutti i segnali paralinguistici, le pause, fill ed empty, questi che io dico, no? Perché? Perché erano considerati dei garbage models, cioè dei modelli che non servivano al riconoscimento vero e proprio del messaggio. Invece, in questa ricerca, tutti questi aspetti sono considerati e sono importanti per la comprensione del messaggio che si vuole trasmettere. Professoressa Esposito, quindi attraverso le sue parole stiamo capendo effettivamente di cosa parleremo in questa trasmissione. Stiamo cercando di fondere, o almeno lei sta cercando di dirci come si possono fondere, discipline diverse come l'informatica, la matematica e la comunicazione, che effettivamente sono aspetti uniti per avere una risposta ultima, quindi per cercare di capire come la computer science può darci una risposta sulla comunicazione multimodale e quindi sulla comunicazione linguistica. Io, professoressa, a questo punto mi vorrei fermare un attimo con lei per andare a analizzare un lavoro che avete presentato appunto un mesetto fa proprio presso il COST 2102, in cui si confrontava, o almeno si cercava di analizzare, il nostro cervello mentre andava a vedere un video, quindi nella visione di un video, oppure mentre andava ad ascoltare un audio, quindi nell'ascolto di un audio. Io sotto mano ho proprio il paper che avete presentato al COST 2102, ma vorrei che ne parlasse lei. Effettivamente, in questo lavoro che cosa avete scoperto? Questo lavoro di ricerca cercava di investigare sulla quantità di informazione emotiva che viene trasmessa dai canali audio e video, e stava cercando di vedere come noi li combiniamo queste due informazioni, quella visiva e quella auditiva, in un'unica percezione dello stato emotivo della persona che ci sta davanti o della persona con cui stiamo interagendo. L'idea era quella che nelle varie ricerche che sono state fatte fino adesso, il dominio visivo e il dominio auditivo sono sempre stati mantenuti separati, nel senso che si è cercato di capire quanta quantità di informazione emotiva si percepisce dal singolo canale audio, oppure quanta quantità di informazione emotiva si percepisce dalle espressioni facciali. In più, le ricerche correnti si basavano per quantificare la quantità di espressione facciale su fotografie. Ora, le fotografie sono in realtà qualcosa di statico e in generale potrebbero rappresentare un'informazione che in qualche modo contiene l'apice dell'espressione emotiva. Quindi nella realtà di tutti i giorni questo non succede. Nella realtà di tutti i giorni noi vediamo delle facce che cambiano in maniera dinamica, e la discussione era se l'audio era meglio del video. Ora, la nostra idea è stata quella di andare a verificare, attraverso una serie di esperimenti percettivi, appunto se il riconoscimento di espressioni emotive era perfetta nella combinazione dei due canali. Professoressa, la interrompo un attimo perché vorrei fare un passo indietro. Effettivamente, come è stata realizzata questa ricerca e soprattutto che tipi di campioni sono stati utilizzati? Che età avevano? Se erano degli uomini? Se erano delle donne? Insomma, cerchiamo di capire un attimo la metodica utilizzata all'interno di questo studio per cercare di inquadrare come è stato realizzato il vostro studio e per cercare di capire come mai sono usciti alcuni risultati. Il campione con cui abbiamo testato questi stimoli, che sono stimoli audio e video, è stato scelto tra un campione di 90 studenti italiani, i quali essenzialmente erano stati divisi in tre gruppi: 30 che avrebbero visto stimoli di stati emotivi solo video, 30 che avrebbero visto stimoli di stati emotivi solo verso l'audio e 30 che avrebbero visto stimoli di audio emotivi nella combinazione audio e video. Quindi li abbiamo separati questi gruppi e ad ognuno di loro abbiamo di dirci, secondo loro, che tipo di emozione era espressa nella frase che sentivano, se era solo l'audio, nel video che vedevano, se era solo il video, o nell'audio e video combinato. Cioè, loro potevano scegliere tra 6 emozioni che noi avevamo elencato: tristezza, gioia, rabbia, disgusto, ironia e sorpresa, oppure un'altra emozione, oppure potevano dire: non mi sembra di vedere o di sentire o di percepire alcuna emozione in questo stimolo. Il risultato è stato abbastanza interessante. Ora noi ci aspetteremo che, se noi combiniamo due canali, abbiamo una quantità di informazioni maggiore di una sola. Cioè, ci aspetteremo che le due informazioni emotive combinate, audio e video, dovrebbero portare più informazioni del singolo audio. Questo non succede. Mentre, per esempio, il video soltanto, cioè i subject che hanno visto soltanto il video, hanno delle prestazioni nel riconoscimento degli stati emotivi significativamente minori di quelle che gli altri gruppi hanno nell'identificare gli stimoli combinati a tuo video. Quello che è interessante è che noi probabilmente abbiamo un processing non lineare, non solo, ma probabilmente c'è un effetto, e questo è quello che in qualche modo stiamo investigando adesso, c'è un effetto del contesto. Cioè, per esempio, perché la combinazione di stimoli audio e video non è più forte, non ci permette un'identificazione più forte di quella del singolo audio? Probabilmente perché lì, nell'audio e video, noi non percepiamo solo gli stimoli relativi agli stati emotivi, ma anche degli stimoli contestuali allo stimolo stesso. E questo effetto contestuale ci permette di reagire in maniera diversa a quello che stiamo ricevendo. A questo punto, professoressa, le faccio l'ultima domanda, che è poi quella che conclude questa parte di trasmissione, quindi la prima parte di Caccia al Fotone. Nel corso di questa intervista, quindi nel corso di questa chiacchierata, ci abbiamo girato molto intorno, ma effettivamente perché è così importante unire computazione e comunicazione? E quindi a quale scopo cercare di utilizzare due metodi diversi uniti insieme per avere una sola risposta? Non è che c'è un interesse del mix, c'è una necessità del mix, nel senso che noi non possiamo pensare di sviluppare degli algoritmi di riconoscimento vocale, di riconoscimento facciale o di riconoscimento di stati emotivi senza avere un modello di riferimento. E in effetti il modello di riferimento in questo caso è l'interazione uomo-uomo. L'interazione uomo-macchina quindi studia come modelli di riferimento l'interazione uomo-uomo per cercare di trovare delle caratteristiche nella comunicazione che possono essere modellate matematicamente e che poi possono essere algoritmicamente sviluppate per essere implementate in una macchina. Insomma, professoressa, un futuro futuribile che ancora oggi non abbiamo, ma che speriamo e pensiamo di avere un domani per poter utilizzare delle macchine solo con un comando vocale. A questo punto, professoressa, la ringrazio per aver risposto alle nostre domande come al solito. Adesso ci andiamo ad ascoltare un po' di musica e al nostro ritorno avremo al telefono il professor Babiloni e con lui proveremo a parlare di applicazioni pratiche e quindi di come utilizzare quello che abbiamo ascoltato in questa intervista, quindi la comunicazione multimodale, per comandare la nostra futura casa domotica, quindi per far aprire per esempio la porta o per accendere una luce solamente col comando del nostro cervello, quindi questo sarà molto divertente e molto interessante da ascoltare. Quindi a questo punto un po' di musica, poi torniamo in studio e poi di nuovo a cacciafotone. Grazie professoressa. This morning on the wrong side of the bed, the hazy sunrise wraps a veil around my head. I can't get motivated, the swimming thoughts are drowning in my head. And if by some coincidence I do just what they said, and the of the morning blue, just take me away. The fire of failed reason, every season, and the patriotic treason, the ringing of the bells, the avalanche of sorrow, and the soul afraid. Lights, moderate. Music, jazz, soft. Fireplace. Welcome. Okay, what's that? That was Sarah. Self-actuated residential automated habitat. Sarah for short. Fargo, is that you talking like a girl? No, it's the smart house. E bentornati in studio, cari radioascoltatori, a Cacciafotone, la trasmissione di scienza che ogni sabato ormai da 5 anni a questa parte vi accompagna parlandovi di scienza e di tematiche scientifiche. Il pezzo che avete appena ascoltato era tratto da una serie di fantascienza, una serie televisiva di fantascienza che si chiama Eureka ed è una serie americana. In questa serie, soprattutto in questo pezzo, una casa intelligente comunica attraverso la sua voce con il proprietario di questa casa. E questo pezzo ci serve per introdurre un pochino l'argomento di questa seconda parte della trasmissione, perché andremo a parlare col professor Fabio Babiloni, professore di fisiologia presso il Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia dell'Università di Roma. Buongiorno professor Babiloni. Buongiorno. Professor Babiloni, dentro questa trasmissione, dentro questa seconda parte di Cacciafotone, proveremo proprio a parlare di BCI. Ma quando parliamo di BCI, che cosa intendiamo? Dunque, BCI è un acronimo, cioè un insieme di lettere che sta per le iniziali di Brain Computer Interface, che significa interfaccia cervello-computer. È un'area della ricerca scientifica che si propone di dotare gli utenti di modalità alternative ai muscoli per interagire con l'ambiente circostante. Noi sappiamo che ci muoviamo e spostiamo le cose nell'ambiente circostante per mezzo dell'attività muscolare comandata dal cervello. E il Brain Computer Interface, quindi lo studio delle interfacce fra cervello e computer, aspira a provvedere una modalità alternativa di interazione con i dispositivi elettronici, in parole più semplici. Ad esempio, gli obiettivi che ci si pone sono quelli, ad esempio, di spegnere e accendere apparecchiature elettriche o elettroniche, semplicemente modulando la propria attività cerebrale. Incredibile in realtà, professore, quello di cui sta parlando, perché lei non sta parlando di fantascienza, ma lei sta parlando effettivamente di scienza, perché già esistono delle applicazioni fatte per interagire fra il cervello e un'applicazione esterna. Ora, la mia domanda però è: come sono fatte queste applicazioni e in che modo si riesce a fare un link fra il cervello e un'applicazione esterna a noi, quindi magari fra il cervello e il bottone che accende la luce, perché questa è una cosa assolutamente innovativa. Sì, è un, come le ho detto, è un'area delle neuroscienze, quindi non stiamo stiamo parlando di un centinaio di laboratori nel mondo che si interessano di questa attività. L'Italia, devo dire, è fra i primi laboratori nel mondo come qualità della ricerca, e questa attività aspira a riconoscere l'attività cerebrale, questo campo di studi aspira a riconoscere l'attività cerebrale durante l'immaginazione di alcuni semplici atti motori. In altre parole, quando noi immaginiamo di muovere la mano destra, ad esempio, provochiamo nel nostro cervello una modificazione precisa dell'attività cerebrale. È possibile rilevare questa modificazione dell'attività cerebrale tramite dei sensori apposti sulla superficie della testa, che si chiamano elettrodi. Questi elettrodi rilevano il segnale cerebrale, così come che viene prodotto dal cervello, così come noi sentiamo magari delle persone che parlano al di là di una porta, quindi in maniera un po' attutita, in maniera un po' non precisa. Però nonostante tutto, se ci sono due persone fuori dalla nostra porta che parlano, possibilmente a voce alta, noi siamo comunque in grado di sentirli. Ecco, tramite questi elettrodi apposti sulla testa delle persone è possibile registrare l'attività cerebrale. E sappiamo che quando le persone immaginano dei movimenti, ad esempio l'apertura e la chiusura della mano, di una mano, oppure muovere una gamba, ci sono particolari aree del nostro cervello che modificano la loro attività cerebrale. I computer vanno costantemente a guardare queste aree del cervello tramite gli elettrodi, e quando osservano una modificazione dell'attività cerebrale ipotizzano che il soggetto stia pensando di muovere quell'arto. Questo rappresenta una specie di comunicazione fra macchina e diciamo persona. Immagini che io voglia accendere una luce, per l'esempio della casa domotica. Immagini che io stia in una stanza e voglia accendere una luce semplicemente con, fra virgolette, il pensiero, o più scientificamente modificando la mia attività cerebrale. Allora io posso pensare di dare il comando di accensione, che può essere un televisore ma anche quello di una lampadina, semplicemente associandolo al movimento della mia mano sinistra. Quindi il computer sa che quando ci sono delle modificazioni nell'area cerebrale relativa al movimento della mia mano sinistra, e questa modificazione è associata per lui al comando di accendi la luce. Magari l'immaginazione del movimento della mano destra potrebbe essere associato al comando spegni la luce. Naturalmente il difficile sta nell'addestrare il computer a riconoscere l'attività cerebrale in connessione con l'immaginazione del movimento. Ma questo è un fatto tecnico che ormai si è risolto in qualche maniera. Professore, la interrompo un attimo perché nel fuori onda noi ci siamo detti che la parte difficile non è tanto nell'addestrare il computer, ma è tanto nell'addestrare il tester, cioè colui che sta testando lo strumento, e fargli capire che un determinato pensiero può comandare per esempio l'apertura di una porta. E quindi quello che volevo sapere da lei è se questi tester, cioè coloro che hanno testato per la prima volta lo strumento, si sono trovati poi impacciati a testarlo, perché diciamo non è proprio consono sapere che il proprio pensiero può accendere una luce, può comandare magari l'avvio di una lavastoviglie oppure può aprire una porta. Ma le registrazioni sono state fatte su soggetti volontari, naturalmente, e quindi abbiamo fino ad oggi analizzato una quarantina di persone, che sono gli studenti tipicamente che vengono da noi a fare le tesi di laurea in ingegneria elettronica o in neuroscienze. Le specializzazioni in neuroscienze, e quindi sono tutti persone che partecipano su base volontaria a questi studi, e naturalmente loro devono fare un training, cioè una fase di addestramento. Io non so se lei magari ha mai visto quei programmi di riconoscimento vocale, no? In cui lei a un certo punto deve leggere un testo scritto e il computer riconosce che la sua A è relativa al simbolo A che sta scritto sullo schermo, in modo tale che così quando poi lei parla è in grado di scrivere direttamente sullo schermo. Questi sono i programmi di scrittura basati sulla voce. Ecco, è più o meno la stessa cosa. C'è un periodo di addestramento in cui l'utente, queste persone con gli elettrodi in testa, addestrano il computer a riconoscere la propria attività immaginativa. Questo periodo può essere anche di una settimana quasi. E devo dire, adesso io non vorrei entrare proprio nello specifico, nel tecnico, ci sono delle modalità in cui anche in mezz'ora si riesce a ottenere una mutua comprensione fra la propria attività, modificazione dell'attività cerebrale e il riconoscimento da parte del computer. Professore, volevo fare un'altra domanda, che è una domanda fondamentalmente informatica, perché nei vostri lavori il software lo chiamate BCI 2000. Ora, il software è solamente un'interfaccia grafica messa davanti al computer per vedere, visualizzare per esempio quali aree del cervello vengono toccate, vengono stimolate, e collegare quel tipo di stimolazione a un movimento esterno di un'applicazione, oppure è come se fosse una specie di sistema operativo che coordina un po' tutto? No, il BCI 2000 è un insieme di routine di acquisizione e gestione dei segnali cerebrali che è stato messo a punto dai laboratori, dei laboratori americani nel corso degli ultimi 7-8 anni. Anche noi abbiamo partecipato come Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia della Sapienza e dell'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico Fondazione Santa Lucia, abbiamo partecipato alla stesura di questo software. È un software che viene poi di uso scientifico, quindi viene poi impiegato nei laboratori, di ormai quasi un centinaio di laboratori nel mondo che impiegano questo software, per la rilevazione dei segnali cerebrali e la loro classificazione. Poi invece le applicazioni, cioè generare una casa domotica o generare delle interfacce grafiche comprensibili non solo agli ingegneri ma alle persone normali o anche alle persone disabili, che dovrebbero essere poi gli utenti finali di questi dispositivi, invece devono essere fatte in proprio, cioè dai ricercatori che si appoggiano su questa base. Tanto per dire, fare un paragone, è come avere Windows, e Windows è la base, e poi naturalmente se lei vuole fare un programma particolare di videoscrittura può usare delle soluzioni ad hoc. BCI 2000 sarebbe l'analogo di Windows per i computer, cioè la base su cui puoi sviluppare le proprie applicazioni. Mi verrebbe da dire, professore, che un'applicazione simile, vista la difficoltà dei movimenti, potrebbe essere molto utile per soggetti disabili e anche un po' per gli astronauti, perché insomma nello spazio i movimenti non sono molto semplici da fare. E so anche che siete stati contattati qualche tempo fa dall'Agenzia Spaziale Europea per questo. Guardi, recentemente, un anno fa, abbiamo avuto un invito da parte dell'Agenzia Spaziale Europea a descrivere se interfacce cervello-computer potessero essere utili nell'attività degli astronauti. Le persone dell'Agenzia Spaziale Europea ci hanno spiegato che il concetto di spazio, cioè di ridotta capacità di movimento degli astronauti all'interno delle stazioni orbitali è un problema molto sentito. Quindi una modalità di interazione con i dispositivi che potesse liberare le mani degli astronauti, e quindi anche il brain computer interface, era una cosa che loro volevano investigare, volevano capire di più la fattibilità. E c'è un programma di studio, adesso ci sono degli studi di impiego del brain computer interface durante le situazioni, come vengono dette, di microgravità, quelle che si ottengono sui voli parabolici, che simulano in qualche maniera l'assenza di peso. Ecco, diciamo, c'è l'interesse a queste modalità di interazione fra una persona e i dispositivi, semplicemente senza muoversi. Questo è con il pensiero, bisognerebbe dire, no? Poi dopo con la modificazione dell'attività cerebrale indotta dall'attività dal pensiero stesso. Quindi l'Agenzia Spaziale Europea è interessata. Noi abbiamo scritto anche un capitolo su un libro dedicato dall'Agenzia Spaziale Europea a queste nuove forme di interfaccia fra uomo e macchine. Senta professore, le faccio l'ultima domanda prima di concludere un po' la trasmissione di questo sabato. Quali crede che saranno gli sviluppi futuri di questa applicazione? Cioè, si punterà più sulla miniaturizzazione degli strumenti o si lavorerà di più sull'algoritmo che permette di collegare le varie interfacce? Beh, sicuramente questo sistema ha bisogno di rilevare l'attività elettrica che c'è nella nostra testa, quindi ha bisogno di sensori, per adesso elettrodi. Per adesso questi sensori sono ingombranti, sono grossi, hanno i fili. Ecco, quello che sicuramente succederà nei prossimi 3-4 anni sarà che questi sensori diverranno sempre più piccoli, invisibili all'occhio, nascosti fra i capelli, e trasmetteranno in modalità senza fili. Adesso questa è quasi una banalità anche ai giorni nostri, in modalità wireless. Noi abbiamo delle cuffie così alla Fondazione Santa Lucia che trasmettono senza fili. Trasmetteranno senza fili l'attività cerebrale a dei dispositivi che anche loro saranno molto piccoli, nascosti nelle cinte delle persone. E quindi, ecco, quello che ci si aspetta nei prossimi 4 anni è una sostanziale miniaturizzazione del tutto. E allora a quel punto potrebbe diventare quasi utile impiegarli, per esempio, per interagire con i telefonini. Professore, intanto la ringrazio per la pazienza con cui ha voluto rispondere alle nostre domande. Saluto i nostri radioascoltatori, gli ascoltatori di Caccia Fotone e di Radio Città Fujiko. L'appuntamento è, come al solito, sabato prossimo, stessa ora, stessa radio e stesso fotone, con l'augurio di una buona scienza a tutti. Grazie, professore.